Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Come hanno comunicato, come stanno comunicando i brand durante la pandemia? Esiste un rischio omologazione? C'è spazio ora per l'ironia, per l'irriverenza? Qual è il lavoro che attende i creativi di tutto il mondo? Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi sulla scia dell'emergenza nasce il primo Charity Fashion Pop-up Store, una vetrina aggiuntiva per il mondo della moda così sotto pressione in questo momento e un canale di beneficenza per le famiglie in difficoltà. Focus sui trend dedicato infine all'avanguardia e-commerce, dal social commerce alle main streets virtuali, ecco i casi che fanno scuola nel mondo. Take care of people. We're people. People. People. People. People. People. Family. Family. Family. Family. Family. Even now. Especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today more than ever. Today more than ever. Il video lo trovate sulla nostra pagina Facebook, è la clip di un utente di YouTube che mette insieme vari spot ideati durante la pandemia. Settori e brand diversi, anche tra i più prestigiosi, ma è difficile distinguerli. Musica, immagini, parole, tutte molto simili. Una delle sfide che questo periodo impone è sicuramente quella della creatività. Quale cifra usare, quali messaggi comunicare, come sta cambiando il rapporto tra brand e aziende dal punto di vista degli spot e delle campagne di comunicazione in generale. Ne abbiamo parlato con Roger Botti, direttore generale e creativo di Robilant Associati. Il rischio omologazione è sempre dietro l'angolo, perché si sente la responsabilità di dire alla gente quello che la gente vuol sentirsi dire. Abbiamo visto spot con la ripetitività di parole, di frasi come persone, vicinanza, famiglia, casa, insieme. Il rischio è di non costruire un rapporto diretto e soprattutto differenziante. Su quali basi secondo te in questo momento va costruito il rapporto dei brand con i propri consumatori, i propri utenti, il proprio pubblico? Soprattutto direi la verità. Il vecchio adagio che dice la miglior pubblicità è semplicemente la verità ben detta. Mai come oggi questa cosa è necessaria. La verità unita a il coraggio di, per esempio, quando torneremo alla normalità, ormai ci siamo vicini, si spera, tornare alla normalità essendo normali. La normalità non si annuncia, la normalità si vive. Il pericolo grave è la comunicazione senza i contenuti. Quindi oggi la gente cerca i contenuti, cerca concretezza, cerca la verità. Le verità possono essere legate al prodotto, all'innovazione, alla parte etica, alla responsabilità, ma alla concretezza di risposte autentiche. Chiediamo alle marche la parte istituzionale che ci manca dalle istituzioni. Quindi cerchiamo credibilità, autenticità delle risposte, efficacia, concretezza, tutto quello che ci manca dall'altra parte. Ecco, a questo proposito si parla molto in questo periodo, per l'ultima ondata che è quella ovviamente di Black Lives Matter, di brand activism, cioè proprio dell'impegno, delle prese di posizione dei brand. Tu a questo riguardo cosa pensi? Ma penso che sia molto giusto, perché le aziende sono come persone e quindi hanno una personalità, hanno un carattere, devono avere il coraggio di esprimerlo, devono avere il coraggio di prendere una posizione. Prima facevi riferimento alle formule. Durante la pandemia ne abbiamo viste, ascoltate molte, separati ma uniti, insomma tante appunto di queste che si sono un po' tutte copiate l'una con l'altra. Adesso è il momento del back to. E quindi dobbiamo aspettarci un'altra ondata in questo senso? C'è questo grande rischio, lo si sta cominciando a vedere già. Temo che vedremo ricominciamo, sicurezza, garanzia, distanza. Credo che questo sia davvero la cosa da evitare. Quando una marca cavalca temi così comuni, che sono rilevanti per la gente perché siamo tutti sulla stessa barca e abbiamo tutti lo stesso problema, sono così comuni che non possono essere un territorio di marca. Una marca ha il dovere di definire un proprio territorio, una propria distintività. Cambiamo argomento, ora parliamo di Together We Stand, il primo charity fashion pop-up store online, un vero e proprio retail multi-brand che ha un duplice scopo: offrire una vetrina aggiuntiva al mondo della moda e raccogliere fondi a favore della fondazione LAPS di Lapo Elkan, che sostiene la Croce Rossa Italiana. A ideare e promuovere l'iniziativa Drex Code, piattaforma leader in Italia per il noleggio di abiti e accessori firmati. Ecco che cosa ci ha detto la CEO e co-founder Federica Storace. Man mano che l'emergenza sanitaria rientrava, attraverso anche il dialogo con i partner, i nostri partner, i brand della moda, ci siamo resi conto dell'importante ricaduta economica sulla vita di molte aziende e anche e soprattutto sulla vita di molte famiglie, e ci siamo chiesti se noi potevamo fare qualcosa, ma veramente qualcosa di concreto, no? Con gli strumenti che avevamo, che abbiamo. Quello che abbiamo è appunto un e-commerce che funziona e un database di iscritti e di follower. Più o meno abbiamo una community di 260.000 donne che ama la moda e che ci segue. Abbiamo un parco clienti fidelizzato. Abbiamo pensato a questa iniziativa, che poi abbiamo chiamato Together We Stand, che non è altro che uno store online che è ospitato dal sito Drex Code, che ha però l'obiettivo di vendere i prodotti, gli accessori, gli abiti che i brand ci mettono a disposizione per sostenere le emergenze, diciamo così, che sono emerse post-Covid. Quindi è un sistema, diciamo così, di charity innovativo che ha un duplice scopo. Il primo è quello appunto di devolvere per le emergenze post-Covid, e la prima emergenza che stiamo sostenendo è l'aiuto alle famiglie, come dicevo prima, che si trovano in gravi difficoltà economiche, e devolviamo il 30% del ricavato della vendita degli abiti e accessori che sono forniti dai nostri brand partner alla Fondazione LAPS a favore della Croce Rossa Italiana per distribuire buoni spesa. E l'altro obiettivo è quello di far qualcosa per il nostro settore, per il sistema moda, fornendo ai brand un'ulteriore vetrina, un'ulteriore piattaforma dedicata alla vendita per quegli abiti, accessori, eccetera, che purtroppo per 2 mesi sono, diciamo, rimasti venduti. Diciamo che quasi tutti i brand hanno il problema che la stagione quest'anno è partita 2 mesi dopo, quindi noi in questo modo vogliamo dare loro ulteriori visibilità, mettere a disposizione i nostri database e fornire una vetrina aggiuntiva, dando anche loro la possibilità di aderire a una charity, a un progetto di charity importante. Dalla piattaforma social per fare shopping online insieme agli amici, alla strada virtuale dove trovare tutti i propri negozi preferiti, fino alla galleria d'arte ad impatto sociale. Ecco dove ci porta all'avanguardia dell'e-commerce. Tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Essere e Avere. Cosa vi aiuta a trovare oggi? Ombrello, ombreggiare, Omer. No. Noè, l'arca, no, d'auto, Nordstrom, racket, ergonomia, Urban Outfitters, Urkel. Direi che cerca di indovinare quello che vuoi dire. Il mio completamento automatico è a aggressivello un filo. Fammi provare, portami in un sito che sia super intenso e fuori di testa. Focus sui trend. Sono 2 milioni i nuovi consumatori online in Italia da inizio anno. L'emergenza coronavirus ha accelerato la crescita già avviata dell'e-commerce anche per categorie di prodotti fino ad oggi più trascurate dagli shopper italiani, come l'alimentare. Insieme a Luisa Schiero di Future Concept Lab siamo andati a caccia dei casi più innovativi di e-commerce nel panorama internazionale, i casi che guideranno la fase più matura del settore. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti quanti. Con il primo caso introduciamo il tema del social commerce, evoluzione ultima dell'e-commerce. Oggi via social si può comprare direttamente, ma non parliamo solo del tasto buy cosiddetto su Instagram, per esempio, c'è anche chi ha fatto qualcosa di più. Raccontaci, Luisa. Sì, davvero, in questa fase di esplosione, come dicevi tu, dell'e-commerce, quasi una rivoluzione veramente copernicana, qualcuno l'ha definita, ecco, questa sperimentazione di come si può evolvere, no, la dimensione del comprare, di fare acquisti online, molto interessante è questo primo caso che si chiama Squadded Shopping Party, che ci porta verso il tentativo di recuperare una dimensione della condivisione per affinità, mi viene da dire, quindi anche relazionale, un po' più calda in un acquisto online. Si tratta di una piattaforma social che però è anche collegata a un'app che consente agli utenti di connettersi con gruppi di amici e fare shopping online insieme chattando. È chiaro che, come dicevi, già prima della pandemia c'era stata già una forte crescita di questo tipo di e-commerce social, soprattutto in paesi già molto avanti come la Cina, no? Mi viene in mente un'app come Pinduoduo che consente, pensate, addirittura di condividere l'acquisto a prezzi scontati. Le previsioni per questo paese, per esempio, sono che nel 2022 movimenteranno app di questo tipo beni per un valore di oltre 39 miliardi di euro, quindi insomma si tratta anche di cifre importanti. Partendo da queste considerazioni, Eliza Khan, ex brand manager di L'Oreal, ha lanciato appunto questo Squadded Shopping Party, con in qualche modo l'auspicio di portare questa formula nuova di e-commerce anche nei paesi occidentali. La piattaforma l'ha pensata soprattutto riferita alle giovani generazioni, quindi ai teens e alla Gen Z, perché sono loro in particolare che amano fare acquisti insieme al proprio gruppo di amici, e quindi ha selezionato per questa piattaforma marche di moda e prodotti di bellezza particolarmente attrattivi per loro, quindi da Zara, Yux, da Zalando, Asos, Pretty Little Thing, ma anche per esempio Sephora. Secondo caso, altra piattaforma interessante lanciata a marzo, quindi giusto in tempo per l'emergenza, trasforma lo shopping virtuale in una sorta di passeggiata tra vetrine, come se ci trovassimo in una Main Street, quindi una delle vie commerciali piene di negozi. Esattamente, si tratta di Streetify e in questo caso potremmo quasi parlare di e-commerce di prossimità, perché è una piattaforma che nasce proprio sulla spinta di una necessità molto forte a fine marzo, come tentativo di supportare i negozianti mantenendo il contatto, seppur virtuale, tra le persone a casa e i negozi, creando una sorta di rete. È possibile per gli utenti quasi visitare moltissime, diciamo, città del mondo. Io ho provato, per esempio, mi sono collegata in Italia, su Milano, Roma, Bari, ma piuttosto Londra, quindi è davvero molto estesa la possibilità. Si sceglie il settore e si viene visualizzata una mappa in cui si naviga, si entra nei negozi, si entra quindi nel sito web del negozio preferito, piuttosto che nel sito, nella pagina Facebook o Instagram. Qui la cosa interessante è che questa piattaforma è offerta gratuitamente, quindi questa rete di supporto gratuitamente nei diversi paesi dove è stata proposta, dall'America all'Australia, all'Europa, eccetera. In ultimo, una cosa davvero carina e divertente è che è georeferenziata, per cui nel momento in cui voi vi collegate, sempre in tempo reale viene visualizzato, diciamo, il tema esterno, per cui se è buio l'app vi mostrerà, o il sito vi mostrerà una grafica come se voi foste di notte, piuttosto che piove vedrete la pioggia. Quindi molto anche, insomma, divertente, se volete. Un altro progetto bellissimo con un'ispirazione sociale ruota intorno a un prodotto, un oggetto straordinario. Un'altra declinazione di e-commerce molto veramente interessante, in questo caso siamo a Bruxelles, si tratta di una B Corp che ha creato The Skate Room, la stanza degli skateboard, quindi una sorta di galleria d'arte fisica ma anche online. La B di B Corp sta per Benefit, quindi Benefit Corporation, quindi indica un'azienda impegnata in una forma di business non tradizionale con un forte impatto impatto positivo sulla società e sull'ambiente, proprio voluto come parte del proprio business. E nel caso di The Skate Room, l'idea di fondo è legata molto all'arte e alla creatività, infatti è Art for Social Impact, prevede una collaborazione tra artisti famosi, fondazione d'arte e skateboarders. Perché? Perché il fondatore Charles-Antoine Bodson è egli stesso uno skateboarder molto appassionato. Come funziona anche in questo caso? Gli artisti creano letteralmente la loro opera sugli skateboard. I proventi delle vendite di queste opere d'arte diventano parte di donazioni a progetti sociali. Al momento sono già state convertite in donazioni diverse, oltre un valore di $700,000. Chiudiamo con un caso italiano significativo per la categoria di prodotto che non si era mai avvicinato in modo così efficace all'e-commerce. È un prodotto inaspettato per l'online, Luisa. È davvero inaspettato e ha da un lato un fortissimo aspetto di creatività, ma anche, mi viene da dire, sostenibilità in qualche modo, perché aumenta molto la qualità di quello che è la nostra relazione con il cibo. Stiamo parlando in particolare di pesce e il sito a cui faccio riferimento si chiama Ora Pesce. Nasce dall'esperienza personale di Giacomo Vedetti, che conosce bene perché ha vissuto, vive la realtà di Rimini e come tutti coloro che vivono al mare sanno bene quanto sia importante nel consumo del pesce la relazione, se possibile naturalmente, diretta con la banchina. Voi dal sito potete scegliere la tipologia del pesce, la quantità desiderata, il giorno di consegna, la fascia oraria e tutto quanto come normalmente avviene. Però cosa succede invece dalla parte della produzione? Diciamo, il pesce viene direttamente pescato dalle barche che fanno parte del network di Ora Pesce, e tra l'altro una cosa molto carina è che ci sono nel sito le bio e il racconto di questi pescatori orgogliosissimi, molto bello da leggere della loro attività. Dopodiché sulla barca è sottoposto a pulizia e miscelazione e poi su una piattaforma specializzata nei porti viene selezionato e confezionato, quindi caricato su dei camion refrigerati e portato a destinazione a casa delle persone. Quindi un processo portato il più possibile a la massima qualità del consumo poi del prodotto. Luisa Aschiero, grazie. Grazie a voi e arrivederci. Il consumautore. La rinascita dell'Italia, una visione per il futuro tra etica ed estetica aumentate. Questo è il titolo dell'ultimo saggio fresco di stampa del sociologo dei consumi Francesco Morace. Buonasera Francesco, questa sera il tema lo scelgo io. Partiamo proprio dal tuo libro scritto proprio in queste settimane. Buonasera Maria Luisa. Sì, diciamo che l'impianto è legato ai grandi cambiamenti, ai paradigmi ed era già pronto a febbraio e poi ho avuto il tempo di ragionare e riflettere come molti di noi, e quindi c'è tutta una parte dedicata anche alla pandemia e al futuro, diciamo al mondo che verrà. Io penso e continuo a pensare che l'Italia abbia delle potenzialità che purtroppo non riesce spesso a mettere in campo, ma avendo questa caratteristica culturale molto particolare che noi siamo bravi nei momenti delle emergenze, credo e spero che i prossimi mesi possano essere proprio dei mesi in cui mettere a frutto queste nostre capacità, che sono capacità di reazione, di creatività, di relazione tra le generazioni. Questi sono anche un po' i punti su cui il libro è stato costruito. Tu poni in primo piano la sfida di un'etica e un'estetica che definisci aumentate, appunto. Ecco, in cosa consiste questa amplificazione e questa sfida soprattutto? Sì, la sfida è emersa proprio negli anni 10, quindi nel decennio che ci siamo lasciati alle spalle, perché abbiamo tutti un po' vissuto in un mondo di realtà aumentata dalla tecnologia, ma non siamo stati invece in grado di elaborare etiche e quindi valori altrettanto forti e potenti, e in fondo neanche estetiche, no? Che è quello su cui l'Italia potrebbe dimostrare la propria grande capacità, che siano all'altezza di questo mondo virtuale, di questo mondo in cui alla fine tutti ci siamo abituati a vivere, questo famoso on life di cui parla Luciano Floridi. Questa è la grande, vera, grande sfida per l'Italia. Tra i paradigmi che tu proponi per la lettura della contemporaneità vorrei sottolineare l'ultimo, che tu chiami Deep and Deal. Ecco, deal, serve un nuovo patto nei consumi, nell'economia, nella politica? Sì, serve un nuovo patto che sia sistemico. Da questo punto di vista alcuni passi erano già stati fatti nella direzione della sostenibilità, no? Del famoso Green Deal europeo. Ma quello che nel libro io sottolineo è che non si tratta solo di un patto ambientale, non si tratta solo del mondo verde, ma si tratta anche di una qualità della vita che deve cambiare. Quello che abbiamo in fondo anche un po' imparato nei giorni della pandemia, quindi dare un giusto ritmo, una giusta misura, ecco, una dimensione etica che sia legata però anche a una visione alta, una visione istituzionale. Per questo si parla molto di piano Marshall, ma in realtà non siamo in un dopoguerra, siamo in una dimensione in cui dobbiamo ripensare alle grandi regole, e questo può essere fatto solo tutti insieme. Quindi adesso ci sono gli stati generali, non so se sia questa la risposta, ma quello che conta è cominciare a avere un pensiero lungo, strategico, sistemico e di grande visione sul futuro. La rinascita dell'Italia dunque già in libreria, Francesco? Il 25 giugno sarà in libreria, quindi lo possiamo prenotare, ma fra 3 giorni, 4 giorni lo troviamo. Grazie a Francesco Morace, Essere Avere finisce qui, a domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.